Sto entrando nella dimensione panica del viaggio. La strada a Trobacos e all'inizio della tappa è disseminata di conchas e di frecce amarillas. E mi chiedevo di stare attenti a non inciampare in una di queste conchas di metallo. 10 secondi dopo, 1 minuto dopo, un bambino boom, inciampa e cade. Non passano altri 3 chilometri e mi chiedo, Esther, secondo te troveremo qualcosa, oggetti sparsi lungo strada? Poche centinaia di metri e troviamo un biglietto abbandonato con una to-do list incomprensibile perché è scritta in spagnolo, credo. La dimensione panica. Il dio Pan ci sta seguendo. Cosa hai detto, amore? Sì. No, però dobbiamo ancora arrivare alla Virgen del Cammino.